in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Il mattino ha l'ora in bocca, diceva Zaia solo pochi giorni fa parlando della sua insonnia. È un modello che non è un modello, perché l'Emilia Romagna non ha concluso per niente. Però il problema è quando denunci, no? 20 anni sono il tempo di una prescrizione. Non può essere quando, perché tu può essere che denunci quando diventi forte. La domanda io faccio, cosa c'entrava Placido? Così è la caccia alle streghe. Non è che se uno sembra che possa essere e nessuno ha fatto il suo nome, poi può essere inseguito come se fosse un reprobo. Allora, diceva la Meloni a pagina 5, a pagina 5, a pagina 5, non c'è a pagina 5, dove l'ho letto? Sto messo male. Una vittima denuncia, il carnefice deve essere definito tale e la vittima deve essere continuata a definire vittima. L'80 euro è come la mitologia del 40%, il sole di Austerlitz, capisci? Ogni Napoleone ogni Napoleone ha questi suoi simboli. Per sì, parliamo del sonno, ma bisogna parlare anche dell'insonnia. E si è più vigili quando si rimane insonni. Ministro Martina, ministro dell'agricoltura, dovrebbe occuparsi dei problemi dell'agricoltura. Aia! Reach out and touch me. Popolo dei Giasvegli, buongiorno, bentornati. Una grande giornata che noi oggi iniziamo nel nome di Anna Frank. Anna Frank. Ve la ricordate questa ragazza, questa bambina olandese chiusa dentro un alloggio, l'alloggio segreto, capace di immaginare un mondo e ieri infamata da alcuni teppisti che si fanno chiamare ultras della Lazio, che hanno messo la sua foto in segno spregiativo in un adesivo che hanno, con cui hanno tappezzato la curva sud, come per dire voi siete Anna Frank, e hanno messo in questo adesivo la bella foto di Anna sorridente con la maglia del Roma. Ma allora noi siamo Anna Frank, perché nulla ci sembra più bello di accostare qualcuno a questa bambina che ha immaginato la speranza nell'Olocausto. Buongiorno Mario Giordano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma come gli vengono queste trovate? Io veramente, alle volte bisognerebbe dargli l'Oscar. No, ma l'Oscar dell'imbecillità totale, perché oltretutto, come dicevi tu, cioè, come si può pensare di considerare un insulto Anna Frank? Io ho apprezzato molto oggi la prima pagina di Repubblica con molto tutte le magliette. Perché, spieghiamolo, con tutte le magliette del calcio delle diverse squadre. Con le diverse squadre, perché in effetti io, come tutti, ci siamo commossi da bambini, fin da bambini, leggendo le pagine di Anna Frank, essere paragonati a Anna Frank, appunto, il suo sogno di speranza, la sua capacità di amare in quella situazione, è tutto meno che un insulto. Quindi uno che pensa di insultare un altro paragonandolo ad Anna Frank, È veramente l'Oscar della coglionagine, se mi permette, un'espressione francese, oxfordiana, perché è assolutamente imbarazzante. E quindi non ci sono veramente parole rispetto a Oscar della coglionaggine. Prendiamo e sottoscriviamo, iniziamo a entrare nel fritto misto della giornata. Ce n'è di roba, Mario, commentiamolo insieme. Non faccio la competizione con Luca Zaia, sono felice che Luca Zaia abbia superato il 50%, sono felice, perché adesso possiamo unire le forze, Lombardia e Veneto, per fare la battaglia del secolo. Nonostante i gufi, la grande soddisfazione è che abbiamo superato la soglia che io mi ero dato. Bobo Maroni commenta la difformità dei risultati, e questa difformità però nell'affluenza maggiore in Veneto, inferiore in Lombardia, è un po' su tutti i giornali ed è anche nella trattativa che si sta impostando. Sentite Salvini, ancora più caustico, non è X Factor, dice. È chiaro, lo dico agli alleati del centrodestra, che nel programma comune di governo perché magari qualcuno non si è accorto di che aria tira, il tema autonomia dovrà essere centrale. Tengano in conto che non si tratta di un sondaggio, qua non si tratta di fare l'autonomia alla X Factor o alla Masterchef. E Giorgia Meloni ancora col dente un po' avvelenato sul referendum. Non credo che ci si potesse aspettare, per esempio in Lombardia, meno del 40% di fronte a una consultazione che vedeva il 100% delle forze politiche a favore e il cui e quesito era più o meno vuoi essere ricco. Insomma, immagino sì, insomma che la gente dica sì, voglio essere ricco. Ma la soluzione non è la rincorsa all'egoismo locale di una o dell'altra regione, quindi io voglio trattenere le mie risorse, allora io voglio ancora di più perché non se ne esce mai. Sono un po' pesi massimi e tutti col sarcasmo. Mario, che pensi di queste voci che abbiamo sentito? Chi è il vero vincitore? Zaia da solo o anche un po' Maroni o anche un po' Salvini? Ma io incredibilmente penso che sia la gente che sia andata a votare, che comunque è andata a votare, perché ci siamo stracciati tanto le vesti, ho sentito anni e anni di con l'astensionismo, la gente che non va a votare. Adesso su una consultazione che non ha avuto grande risonanza, perché sulle grandi televisioni è stata per semi squadra, il fatto che c'è quasi il 60% in Veneto, comunque quasi il 40% in Lombardia, è andata a esprimere un voto. Ecco, secondo me è stato un seguito del voto del 4 dicembre dell'anno scorso, cioè è stato un gesto di ribellione. A me fa un po' ridere, ha fatto un po' ridere ieri sentire tutti quelli che dicevano appunto referendum imbroglio, non serve a niente, si poteva evitare, soldi sprecati, come se la gente che vota, cioè il voto ci fa, è vero che ormai ci siamo abituati a fare i governi senza chiedere il parere ai cittadini, cioè il voto ci fa un po' schifo, però invece qui c'è stato un grande, è un altro momento, ripeto, come è stato il referendum dell'anno scorso, in cui la gente, in questo caso la gente di due Lombardie, ma credo che se si fosse votato in Calabria o in Liguria sarebbe stato lo stesso, ha espresso fortemente la propria incazzatura, la propria voglia di cambiare, il proprio desiderio di una cosa. Questo secondo me è il dato rilevante, che poi tutto il resto delle analisi rischia di far passare in secondo piano. Allora, continua a friggere l'olio del fritto misto con il campo della sinistra, in cui Giachetti va a fare un frontale contro Roberto Speranza. Tu sei uscito dal Partito Democratico per ammazzare il Partito Democratico e ti svegli una mattina e dici che no, ma tu sei disponibile ad aprire un ragionamento con Renzi, ad andare a vederlo domani mattina, ma che politica è? Ma che politica è? Non sarà forse perché ti sei reso conto che tutto quello che hai fatto non paga sul piano elettorale e hai da piazzare 80 persone? Però allora le chiedo un'altra... Giachetti è caustico con Speranza. Ricordate il famoso precedente, hai la faccia come il culo. Antonio Cassano a Rai Sport. Il campionato italiano mi annoia perché vedi delle partite tra scapoli ammogliati. Una noia mortale. La qualità dei calciatori italiani secondo me è molto molto bassa. C'è la nuova generazione di cosa? La nuova generazione di che? È un po' come un grande che dà il suo calcio dell'asino al campionato italiano. E sentite Tea Falco, anche lei dice di essere stata molestata. È capitato anche a me quando avevo circa 21 anni. Per circa un anno io ho pensato che magari ero sbagliata io. Mi è passato quando poi ho fatto il film con Bernardo Bertolucci e ho capito che non tutti i registi sono delle merde. Sono stata abbastanza forte e gli ho detto no. Però ci sono ragazze, bambine di 19 anni che non si sanno difendere. Ale, Tea Falco. E guardate Feltri che ha acceso la polemica con una stoccata da sergento che a molti ha fatto pensare a Crozza, l'imitazione di Crozza. L'uomo potente cosa ti può fare? Ti può uccidere? Non credo. La realtà è che se uno vuole ottenere dei favori e dà delle prestazioni sessuali, a casa mia si chiama prostituzione. Devono fare dei racconti che siano anche credibili, no? Come quelli di Asia Argenta. Una che limona con i cani, poi si disturba perché uno gli lecca la figa. Dai, su. Al fatto che uno gliela leccherei mai. Mai. Una carimola ricca. Mario, che cosa pensi di questo politicamente scorretto di Feltri? No, a parte il fatto che è divertentissimo, punto di vista anche adesso basta, ce la stiamo tirando questa storia, è vero che fa ascolti, è un po' pruriginosa. Fa ascolti in TV, fa ascolti in TV, quindi ci si sono buttati tutto, fa vendere copie, è stata una delle poche cose che ha appassionato, quindi va bene, ci siamo buttati tutti sopra, però adesso anche basta, cioè è 20 giorni che si parla della famosa leccata di 20 anni fa di Asia Agenda, mi sembra francamente eccessivo, e ripeto, l'ho già detto e lo ripeto, oltretutto si rischia anche un effetto opposto, quello della caccia agli streghi, cioè non più la caccia agli streghi ma la caccia agli streghi, cioè ormai qualsiasi tipo di rapporto, di 20 anni fa un bacino sulla guancia all'asilo rischia di diventare un atto di molestia sessuale, cioè bisogna anche avere un attimo mi sembra veramente che si sia in l'omertà dei maschi, l'omertà degli uomini, quindi la tua domanda è cosa penso del politicamente scorretto. È politicamente scorretto, Feltri lo conosciamo bene, quindi si amo, si disprezza, io lo amo, quindi lo amo anche in queste sue esagerazioni, però soprattutto va a rompere una cosa che è impressionante, io ho sentito in queste settimane delle cose nei confronti degli uomini, addirittura in Svezia organizzano il concerto esclusi gli uomini, cioè non possono entrare gli uomini, per sole donne, riorganizzeremo gli autobus per sole donne perché gli uomini se salgono, io non ho mai molestato nessuno, lo giuro, non ho mai sono accusabile di molestie sessuali, al massimo di modestie sessuali, ecco, massimo. Ecco, ma tu non sei discorso. Mai il direttore che ha fatto battute alla stagista, hai diretto tante testate, ma non sono solo io, ne esistono tanti altri, perché sennò deriva da questa descrizione, descrivo una cosa come di uomini che sono lì a Sardegna che aspettano dietro il cespuglio a zompare addosso la prima che passa, di direttori che aspettano nelle loro stanze le stagiste con i pantaloni già le braghe calate, io le braghe le ho calate tante volte nella mia vita, ma mai davanti alle stagiste, mai le ho calate metaforicamente perché mi sono dovuto arrendere, ma non ho mai calato le braghe davanti alle stagiste, e ce ne sono, perché sennò diamo l'idea veramente, e io l'ho chiamata la caccia agli streghi, perché ogni è diventato, adesso basta, tutti che si risvegliano il coming out dopo. Al contrario di Mario Giordano, quanti potrebbero dirlo? Pochi, però allora godiamocelo, mentre segnalo che non è come dice bene Mario Giordano maschi contro femmine, e lo dice anche Selvaggia Lucarelli che è una donna oggi sul Fatto con un pezzo molto interessante, però sentiamocelo, godiamocelo il Crozza di Feltri. 600 euro date a quei coglionazzi che si vogliono laureare in scienze della comunicazione. Vabbè, guardi, lasci stare le facoltà umanistiche. Ma non me ne frega niente a me. Io in casa ho solo due minchioni in casa, vabbè, di questi qui. Ma è una cosa sua. Stanno lì chini a studiare stilistica del testo, che è una materia stupenda. Ma che fanno bene. Stai lì a perdere tempo con quelle seghe mentali. Ma non so, guardi che. Ma fatele vere le seghe. Leggiti Playboy. Feltrismo, Mario, tu che lo conosci bene, che cos'è? Perché Crozza è straordinario, no? La scienza della comunicazione. Il feltrismo è la capacità di portare, di dare dignità di giornale al linguaggio da bar, al modo di parlare che sia al bar o fra amici, ecco, ha la capacità di trasformare, quindi di avere un linguaggio diretto che ovviamente sconvolge, va a rompere tutti gli schemi formali del perbene, uno dice no, questo non si può dire, lo dice al bar ma non lo dici in pubblico, invece lui dice in pubblico quello che direbbe al bar, e questo rompe i giochi, manda in mille pezzi gli specchi. Notizia di oggi dalla Verità: è stato contestato per una conferenza che doveva fare sulle fake news, lo spiegheremo dopo. Strade in diretta e torniamo con Mario Giordano. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. I già svegli. Quanto ha dormito stanotte? Poco, come al solito, ve l'ho già detto l'altro giorno. Sì, ma pensavo zero. No, 4 ore, 3 ore e mezza, 4 ore dormo sempre. Salve ragazzi, io penso che voi non abitiate in periferie multirazziali, i vostri figli non credo vanno nelle scuole pubbliche, no? E sulla sanità vi appoggerete a qualche bella clinichetta privata, eh? ragazzi, siete sull'argine, ma state tranquilli che la marea raggiungerà anche voi. Ecco, buongiorno. Io le spiego perché sono già incazzata, poi non le telefono più. Vorrei dargli un suggerimento a Telese Giannino di parlare delle case popolari. È vergognoso che ci sia gente che dorme in macchina o in tuguri, mentre nelle case popolari ci sono benestanti. Buongiorno, ringrazio Radio 24 per questa trasmissione soporifera. Grazie, buona giornata, buonanotte. Buongiorno, sono sveglia dalle da un quarto alle sei perché faccio l'insegnante, faccio la mamma, faccio la moglie. Anche se l'orario è tardi, sono un buonaio, ma mi alzo sempre presto e ti ascolto tutte le mattine. Famoso detto milanese, me in bocca un gat che in mano un aucat. Traduzione del proverbio milanese, meglio in bocca un gatto che in mano un avvocato. Viva i fornai, viva le mamme insegnanti, eccetera, che si svegliano presto. E allora raccontatecelo, 02 30 22 44 92. Noi siamo qui con Mario Giordano a tenere alta la bandiera. Mario, ti segnalo questo articolo di spalla sul Foglio oggi, che dice: alla fine il vero sconfitto è il referendum e Salvini. Ti sembra possibile? Ma penso proprio di no, lì si riferisce molto probabilmente al fatto che Salvini sta tentando di dare una dimensione più nazionale, esatto, alla Lega. Quindi dice la vittoria, il sovranismo è morto nelle urne. Io non credo, io credo che uno Stato più forte, per cui penso che anche abbia sbagliato su questa posizione la Meloni che abbiamo sentito prima, perché credo che uno Stato più forte sia uno Stato meglio amministrato, e quindi se con più autonomia si riesce ad amministrare meglio lo Stato è più forte. Quindi non vedo in contrasto l'autonomia e lo Stato, piuttosto ho dei dubbi sul fatto che l'autonomia possa funzionare. Quando io sento che lo statuto, il Veneto come ieri chiede lo statuto speciale, io dico, sì, certo, il Veneto ha amministrato bene, la Lombardia normalmente amministra bene, però noi abbiamo visto regioni a statuto speciale non solo al sud, non sto parlando solo della Sicilia, che apriamo un capitolo, facciamo una trasmissione a parte per parlare, riceve 10 miliardi in più di quello che vede. Esatto, ma è che spreca, con le forme che abbiamo visto, i vitalisti incredibili, gli aumenti anche recenti, gli aumenti ai forestali, gli 80 euro ai forestali aumentati sotto elezioni, le 103 sagre, compresa la sagra della ricotta, andiamo avanti finché vuoi. Ma anche Regione del Nord, perché anche sull'autonomia di Valle d'Aosta o Trentino Alto Adige io avrei molto da dire, perché ci sono stati molti. Quindi spiegalo meglio. Eh beh, cioè sia Val d'Aosta che Trentino hanno usato l'autonomia, lo statuto speciale, per notevoli sprechi. Guarda cos'è la Valle d'Aosta adesso, gli sprechi del casinò, anche lì gli sprechi dei vitalizi, gli sprechi dei soldi. La Val d'Aosta non è stata le inchieste sui soldi trovati nei cassetti, 25.000 euro trovati nel cassetto del governatore due mesi fa. Cioè è un mondo da esplorare. E idem il Trentino, andiamo a vedere come è stato, andiamo a vedere l'autobrenner, andiamo a vedere, ci sono mille cose da denunciare e da raccontare sulla buona gestione. Ma di per sé il principio, però, io sinceramente non lo capisco. Cioè, se l'autonomia serve per amministrare meglio, lo Stato poi è più forte se è amministrato meglio. E questo chiedono i cittadini, questi hanno chiesto i cittadini. Quindi non capisco perché si indebolisca una posizione sovranista che dice bisogna difendere lo Stato quando si dice bisogna amministrare meglio lo Stato. Sinceramente non capisco la contraddizione. Messaggio caustico di Vittorio: ieri abbiamo fatto un referendum per far pagare le nostre spese condominiali a quelli di fronte, del condominio di fronte ho avuto il 100% del quorum dei sì. Vabbè, è sarcasmo. Ma però non è così, nel senso che quando la Lombardia ha 53 miliardi, quante volte l'abbiamo ripetuto, di residuo finanziario? Sì, cioè però di tasse quante pagate, grandi opere, quanti finanziamenti anche per cose importanti come Expo, che sono stati un bene nazionale, questi vanno calcolati, anche questi soldi. Certo che vanno calcolati, cioè, allora calcoliamo però anche le persone che vanno a curarsi negli ospedali lombardi, perché i soldi che abbiamo dato per la sanità in Calabria o in Campania sono finiti da altre parti, e lì negli ospedali ci sono le formiche, le zecche sugli ospedali, e se uno vuol curarsi deve venire in Lombardia, e calcoliamo tutto se vuoi. Non c'è dubbio che le regioni del nord hanno dato più di quello che hanno ricevuto, e quindi non è che stanno chiedendo i soldi degli altri, di farsi pagare, stanno chiedendo di avere una piccola parte in più dei propri soldi, visto che hanno dimostrato di saperlo gestire meglio. Tutto qui. Senti, la notizia di cronaca, secondo me, che ancora oggi tiene banco, è quella del bambino che precipita dal settimo piano. C'è una bellissima intervista al Corriere della Sera a un medico che prova a spiegare come sia potuto accadere, perché ieri c'erano ascoltatori di Radio 24 che facevano calcoli complessi di fisica su massa, accelerazione. Alla fine questo bambino ha sbattuto su questa tettoia e rimbalzato nel giardino, un graffio e un ematoma. Miracolo? Sì, è un miracolo, una serie di circostanze, dopodiché forse bisognerebbe che il bambino non precipitasse dalla finestra, perché lì mi sembra che all'origine ci fosse comunque un momento di distrazione totale. Poi certo, per fortuna è andata a finire bene, però ecco, occhio, perché il bambino che precipita dalla finestra, tra l'altro la persona che l'aveva in custodia se n'è accorta dopo un'ora e mezza, dopo mezz'ora, ha detto che era in bagno e stava ascoltando musica con le cuffie. No, è andata bene, però la persona ideale per affidare un bambino. Avendo quattro figli, insomma, ci pensavo, se te ne cade uno giù dalla finestra e te ne accogli dopo, almeno è andata bene, ringraziamo il cielo, però dove è arrivato? Oddio, ho perso mio figlio. Cioè, Dio ha messo una mano su questo bambino, perché se ne sono accorti due ragazzi che hanno sentito i rumori, due che sono andati a citofonare, non se ne era accorta la signora. È veramente... adesso va bene tutto, però meno male, cioè, ringraziamo il cielo, per fortuna c'è qualcuno che ci ha pensato. Poi ognuno pensi che la sorte, il fatto, il buon Dio, ognuno creda in cosa vuol credere, ma meno male, perché noi era stata una distrazione evidente, grossa come una casa. Mario Giordano Immenso, ti aspettiamo presto, fermiamoci un attimo e poi torniamo con la rassegna stampa. Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.